A detta di Berlusconi, invece di processarlo, avrebbero dovuto dargli una medaglia. È un concetto questo che il Presidente del Consiglio ci ha espresso 3 o 4 volte, anche prima dello show mediatico giudiziario di lunedì scorso, argomentandolo con la tesi per cui, quando ha bloccato su mandato, dice oggi, di Craxi la vendita del gruppo Smel Ingegnere di Benedetti per la troppo modica cifra di 480 miliardi di lire d'allora, ha permesso allo Stato di incassare, dismettendo una per una le varie aziende che ne facevano parte, ben 4 volte tanto. Sarà che tale felice evento abbia avuto luogo comunque sei anni più tardi, in tutt'altra situazione di mercato, dopo che l'IRI e quindi lo Stato aveva dovuto cacciare una montagna di soldi per rimettere in sesto quelle decottissime aziende. Naturalmente il capo del governo si è guardato dal dirlo. È una cosa che non gli interessa. Come non gli interessa il fatto che il processo in corso non riguardi, a pensarci bene, nelle sue motivazioni per sottrarre la Smea de Benedetti, che era notoriamente un nemico suo, né nel profitto che le finanze pubbliche avrebbero potuto ricavare o non ricavare dall'operazione, ma si limiti al banale problema di stabilire se per prevalere nel guazzabuglio giudiziario seguito a quel suo intervento gli abbia o non abbia comprato i giudici a pronta cassa. Di questo particolare, che pur riferendosi a fatti anteriori alla sua discesa nell'arringo politico, rivestirebbe, se chiarito, un certo interesse di chiunque fosse interessato a esprimere nei suoi confronti un giudizio morale, di questo particolare l'uomo di Arcore non vuole discutere. Anzi, da quanto ci è sembrato di capire, non vuole che ne discuta proprio nessun altro. Pazienza. L'argomentazione in sé può sembrare un po' fastidiosa e non del tutto adeguata al ruolo istituzionale di chi l'avanza, ma è lecita. E soprattutto è tutt'altro che inedita. È da anni che, da quando lo accusano di qualcosa, Berlusconi semplicemente cambia argomento. E dovremmo esserci abituati. Quando uno è solito ribattere ogni possibile critica dando del comunista che gliela muove, non è il caso di meravigliarsi se accusato di corruzione di magistrati risponde che Prodi voleva cedere la SME sotto costo. Quella del cambiare argomento, d'altronde, è una mossa a cui prima o poi ricorriamo tutti, e anche se non è citata a quanto ricordo nei manuali di retorica, di solito funziona. O meglio, funziona immancabilmente quando ce la lasciano usare. Perché è una mossa fondata o sulla paura o sul disprezzo dell'avversario e sulla presunzione, spesso, di potersi dettare da sé le regole del dibattito, cambiandone se necessario tematiche e procedure, e più o meno come fa chi, giocando a scacchi e vedendo in pericolo il re, e prende la scacchiera a due mani e la sbatte con decisione sul cranio dell'avversario. Ed è una tecnica utilizzabile, quindi, solo da chi ha forza e prestigio sufficienti per utilizzarla. Una persona normale, al terzo, al quarto, al quinto tentativo di cambiare le carte in tavola, si vedrebbe mandare, con rispetto parlando, a cagare, e dovrebbe rassegnarsi ad entrare in un modo o nell'altro nel merito. Ma la caratteristica principale di Berlusconi, lo sappiamo, è appunto quella di non considerarsi a nessun costo un uomo normale. Il futuro, naturalmente, è sulle ginocchia degli dèi, e vedremo insieme come andrà a finire. Ma è interessante, nel frattempo, prendere debita nota di quel dovevano darmi una medaglia. Che non è, lo avrete notato anche voi, non è un'espressione particolarmente originale, né un frutto di una qualsiasi acutezza retorica, di un qualsiasi sforzo di acutezza argomentativa. È un banalissimo luogo comune, poco più di uno slogan, della stessa squallida famiglia del lei non sa chi sono io, della fra presto mie notizie, un segno vocale caratteristico dell'interloquire di quegli ometti antipatici e pieni di sé che sono soliti far casino nelle code agli uffici postali o nei capannelli al parco, o che litigano sempre per il parcheggio, contestano il conto al ristorante, negano la buona fede del bigliettaio in tram e parcheggiano l'auto in seconda fila con il freno e la marcia inseriti. È, nella migliore delle ipotesi, un tipico sintomo di insicurezza di chi, dubitando fra sé e sé di essere davvero dalla parte della ragione, si rifugia nella coscienza o nella presunzione di un privilegio personale in grado di esonerarlo dal rispetto di quelle regole che considera necessarie solo per gli altri. Ahimè. Il complesso di superiorità può fare dei gran brutti scherzi. L'unico caso storico che mi viene in mente di un effettivo impiego in tribunale di quel tipo di argomentazione, in realtà, è quello del processo Socrate nel 399 a.C. ad Atene. Stando, se ricordo bene, a Senofonte, il controverso filosofo è convinto di compevolezza dal tribunale dell'Elia e invitato, come prevedeva allora la prassi, a proporre lui stesso una possibile pena, non chiese che gli attribuissero una medaglia che allora non si usava, ma di essere mantenuto a spese pubbliche nel Pritaneo, che voleva dire più o meno la stessa cosa. Come noto, i giurati, sentendosi forse presi per i fondelli, optarono per la cicuta. Che tempi, amici, che tempi. We starve, look at one another, short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasy, listening for the new told lies with supreme visions of lonely tunes. Somewhere inside something there is a rush of greatness. Who knows what stands in